E quindi sì, torniamo immediatamente in voce per iniziare questo redazionale sul Portogallo, per il quale innanzitutto ringraziamo i nostri ospiti e la nostra ospite. Si tratta tre ricercatori provenienti dall'Italia che adesso lavorano e vivono in Portogallo. Si tratta a cui diamo il benvenuto, insomma, ai microfoni di Radio Onda Rossa. Siamo in corrispondenza da Lisbona e abbiamo Goffredo Adinolfi che firma anche articoli sul Manifesto proprio dal Portogallo, oltre a essere ricercatore di scienze politiche all'Istituto Universitario di Lisbona. E poi insomma è con noi anche Roberto Falanga, un altro ricercatore in scienze sociali all'Università di Lisbona, e Clelia Bettini, ricercatrice di letteratura portoghese all'Università di Coimbra, per la verità ormai senza borsa, e anche questo insomma è probabilmente un segno dei tempi, non solo del Portogallo ma perlomeno di tutto il sud dell'Europa. Buongiorno, ci sentite? Buongiorno, sì, vi sentiamo forte e chiaro. Buongiorno. Ecco, buongiorno anche da quest'altra voce qui da Roma. E niente, abbiamo deciso insomma di fare questo redazionale sul Portogallo perché in Portogallo stanno succedendo molte cose e perché è anche molto complesso farsi un'idea di quello che sta succedendo, perché sono veramente pochi gli spazi informativi su questo paese, pur molto vicino all'Italia. E vorremmo insomma iniziare cercando insomma di presentare la situazione politica istituzionale dopo delle elezioni e dei panorami che si sono aperti piuttosto inconsueti, insomma, dopo le ultime elezioni portoghesi. Sì, esatto, il punto fondamentale è che il panorama che si è aperto dopo le elezioni di ottobre sono inconsueti, e quindi è molto difficile capire quello che potrà succedere. Perché per la prima volta dalla rivoluzione dei garofani, sostanzialmente, quando è finita la rivoluzione dei garofani, c'è la possibilità, anche se con un appoggio esterno, che il Partito Comunista e il Blocco di Schierda possa far parte di una coalizione di governo. E quindi questa cosa qui ovviamente suscita molti timori e moltissime resistenze. E quindi c'è in atto un processo di mediazione molto molto forte, e non si sa esattamente a cosa porterà. Sì, perché per diciamo fare un po' in quadro anche a chi ci ascolta di quello che è successo, no? Ci sono state le elezioni insomma parlamentari in Portogallo, ha vinto inizialmente una coalizione di centrodestra. Poi questa coalizione, correggimi se cerco di ricostruire un po' il percorso, questa coalizione è stata sfiduciata proprio dal Parlamento perché esattamente come esatto. È successo in altri paesi europei, mi viene in mente la Grecia, voleva applicare le misure, diciamo il programma di austerità che viene indicato a tutti i paesi in questo momento, soprattutto dell'area mediterranea, che si trovano in situazione di deficit di bilancio. E questa sfiducia già diciamo è un segnale importante, credo, nella storia dei paesi, è molto importante, nella storia dei paesi recente, insomma, dei paesi europei. E poi si è creata questa alleanza, questo blocco, questo fronte, diciamo così, di sinistra, che riunisce sia il Partito Socialista sia il Partito Comunista, il Blocco di Schierda, che è questa, diciamo, compagine, possiamo chiamarla più movimentista, non so come definirla, no, esattamente. Il Blocco di Schierda, per capire, è un qualche cosa anche a radici un po' più lontane, è qualcosa di simile a Syriza. Ancora parlando, abbiamo appena iniziato in realtà a parlare, adesso stiamo ascoltando insomma Goffredo Adinolfi da Lisbona per parlare del Portogallo. Stavamo parlando del Blocco de Esquerda e poi nella ricostruzione torneremo insomma alla ricostruzione di quello che è successo a livello parlamentare. Tu ci stavi presentando questa formazione che dici che ha radici abbastanza vecchie e che un po' assomiglia all'esperienza di Syriza. Sì, il Blocco di Schierda nasce sostanzialmente tra il 98 e il 99 dalla congiunzione di varie formazioni, per cui si va dal trotskismo a una socialdemocrazia di sinistra, tutte esperienze al di fuori del Partito Comunista e del Partito Socialista portoghese, e da allora è una realtà che si è affermata stabilmente con una rappresentanza in Parlamento dal 99. Loro sono in Parlamento e soprattutto, cioè, con le elezioni del 2011 hanno perso la metà dei voti e sembrava che, insomma, fossero quasi destinati, non dico a scomparire, però insomma un po' a soccombere, e invece negli ultimi mesi hanno fatto un processo interiore di cambiamento delle loro leadership, e guidate da queste tre donne, Marisa Mattias, Caterina Martins e Mariana Mortagua, riescono a rilanciare il partito e nelle elezioni del 2015 raddoppiano i voti, si affermano, superano anche le divisioni interne che erano figlie delle varie formazioni che avevano dato vita al blocco di scherda, e la grande sorpresa è che anche loro decidono che era il momento di mediare per dare al paese un governo della sinistra, insomma uscire da questa convenzione escludendum che ha caratterizzato il paese fin dal 76. Sì, e per finire, insomma, di presentare questa, diciamo, coalizione di sinistra che si sta configurando in Portogallo, quindi il blocco di scherda, politiche, diciamo, antineoliberiste, quindi contrarie alle imposizioni di austerità dell'Unione, sì. Ci puoi fare una presentazione invece anche del Partito Socialista di Antonio Costa e del Partito Comunista? Sì. Per capire, il Partito Comunista è uno dei partiti comunisti più tradizionali, non si è mai allontanato dall'esperienza sovietica, e quindi si mantengono in quella linea lì, e ciò che distingue soprattutto il blocco di scherda dal Partito Comunista sono il rapporto con i diritti civili, dove il blocco di scherda è molto più sensibile a queste tematiche, e l'europeismo, per cui il Partito Comunista è più anti-europeo e il blocco di scherda, diciamo, è più federalista, nel senso è per la democratizzazione delle istituzioni dell'Unione. Infatti Marisa Mattias è parlamentare europeo ed è molto impegnata su queste tematiche. Il Partito Socialista portoghese è un Partito Socialista molto di centro, fino a qualche anno fa, che nel corso degli ultimi 4-5 anni si è spostato a sinistra, e da quando c'è Antonio Costa, che è il vecchio sindaco di Lisbona, ha un atteggiamento molto, anche lui, molto più mediatore e molto più aperto, che è un atteggiamento che lui ha già avuto nella sua esperienza di sindaco. Comunque la cosa paradossale e che stupisce tutti è che effettivamente in tutti gli studi, diciamo, di carattere politologico comparativi a livello europeo, il Partito Socialista portoghese appariva come il più moderato, il più vicino al centrodestra, e invece l'esperienza di questi 4 anni abbiamo un centrodestra che si è spostato molto a destra e un Partito Socialista che si è spostato un po' a sinistra, e la cosa ha permesso questa apertura. E subito dopo le elezioni c'è stato il conferimento dell'incarico di governo, appunto, invece il leader del partito, quello che si chiama Partito Socialdemocratico, ma che Coelho, sì. Quindi un partito comunque di conservatore di destra, e un incarico per cui, insomma, sui giornali di mezzo mondo si è parlato di una sorta di golpe bianco. Diciamo che sui termini bisogna fare un po' attenzione. Diciamo che la tradizione portoghese voleva che i partiti di sinistra, blocco di scherda e Partito Comunista, non contassero sostanzialmente, un po' perché loro si marginalizzavano, un po' perché erano marginalizzati, insomma è difficile, non vale qui la pena capire chi era chi e chi è che era. Quindi la tradizione voleva che chi vinceva le elezioni anche con la maggioranza relativa dovesse formare il governo. Era successo ad esempio per Socrates nel 2009 che lui vince le elezioni con la maggioranza relativa e questo Presidente della Repubblica, Savako Silva, lo nomina Primo Ministro. Per cui certamente è stata una forzatura la nomina di Passos Coelho come Primo Ministro, però non lo vivrei come... non userei termini così forti come un colpo di Stato. Sicuramente c'è una resistenza da parte del presidente attuale, adesso si sta vedendo molto forte, a nominare Antonio Costa nonostante il governo sia stato sfiduciato. È notizia di ieri che Cavaco Silva abbia affermato che è meglio, dal suo punto di vista, sarebbe meglio un governo di gestione, cioè il governo sfiduciato di Passos Coelho, piuttosto che un governo delle sinistre. E lui ricorda che appunto nell'87 era lui primo ministro di un governo di gestione, quindi c'è una resistenza a questo cambiamento che è molto molto forte, ed è una resistenza che ad esempio non si vede nell'Unione Europea, per cui i vari Schäuble e altre figure non vedono l'entrata del nuovo governo con grande preoccupazione. Quindi è più una preoccupazione diciamo interna a questo punto, cioè, no, se non c'è neanche l'ingerenza, no, della, come è successo in altre situazioni, della cosiddetta troica tra virgolette, credo che sia una situazione. Ma per spiegare anche meglio, noi siamo rimaste quindi alla sfiducia, sì. Attualmente c'è una situazione di stallo, che cosa accadrà? Potrebbero andare a nuove elezioni? Ci dovrà essere, cioè, se non dovessero, come dire, se il presidente non dovesse sciogliere questo nodo, che cosa potrebbe accadere? Adesso venerdì il presidente finalmente dovrebbe cominciare a consultare i partiti. Ha consultato le parti sociali, ha consultato i vari amministratori delle banche. E ciò che può succedere, le elezioni no, perché a gennaio ci saranno le elezioni per il Presidente della Repubblica, e quindi siamo in un periodo in cui il Parlamento non può essere sciolto, quindi fino a giugno dell'anno prossimo non si può andare a nuove elezioni. Il centrodestra ha fatto la sparata di proporre una revisione costituzionale per cui per rivedere questi termini per lo scioglimento della Camera, però ovviamente non avendo maggioranza in Parlamento non possono approvare la riforma costituzionale. Potrebbe andare avanti con un governo di gestione per vari mesi, oppure la nomina di Antonio Costa. Quindi tutti gli scenari sono ancora assolutamente aperti. Diciamo. E a questo punto, insomma, passerei a parlare di come il paese sta vivendo innanzitutto questa sorta di crisi istituzionale, o comunque di stallo che si sta vivendo, cioè sia se esiste, come dire, una reazione di piazza, ma comunque anche qual è il dibattito pubblico su quello che ci hai appena raccontato. Non so se vuoi rispondere tu o passare il telefono, insomma. Sì, passo a Roberto. D'accordo, intanto grazie, e magari ci insomma rimaniamo, se voi siete tutti insieme, sapete, quindi siamo sarà facile insieme, sì. Sono qui, sono Roberto, ciao, buongiorno, piacere. E grazie appunto di questa tua partecipazione a questo redazionale di Radio Onda Rossa. E appunto stavamo chiedendo a questo che Goffredo ci ha raccontato, qual è la reazione nel paese, sia diciamo nelle piazze, quindi da parte dei movimenti, dei sindacati, eccetera, sia anche come dibattito pubblico sulla stampa o nei bar, insomma. Noi ci ricordavamo, insomma, le piazze che hanno animato, no, il 2011, le piazze contro l'austerità, anche in Portogallo si sono fatte sentire moltissimo. Ecco, c'è cosa è rimasto un po' di quel movimento, e se questo movimento in qualche modo è confluito o si è appoggiato anche all'esperienza del blocco di Scherda, credo. Raccontaci anche questo. Sì, ma ecco, diciamo che l'esperienza antitroica, diciamo, che si è organizzata soprattutto tra il 2011 e il 2012, ricordo che a settembre, il 15 settembre del 2012, ci fu un grande movimento nelle città portoghesi, soprattutto Lisbona, insomma, molto visibile a Lisbona, in cui i cittadini sono scesi in piazza e si sono fatti sentire. Parallelamente, insomma, ci sono stati anche altri movimenti, sempre a cavallo tra il 2011-2012, insomma, c'è stata l'esperienza degli Indignados anche qui in Portogallo, e le accampadas, ad esempio, una specie di accampamenti, insomma, di occupazioni degli spazi pubblici. Però direi, ecco, sono state esperienze abbastanza circoscritte, non c'è stata una continuità come ad esempio si è vista nel paese qui confinato, insomma, in Spagna. Abbiamo visto che invece l'evoluzione di questi movimenti ha portato anche ad altro ed è confluito, insomma, come chiedevate anche voi, se c'è stata se c'è stato un movimento, una dimensione anche di assorbimento forse da parte dei movimenti. Ecco, qui in Portogallo qui c'è stato meno, non c'è stato, se vogliamo, insomma, dicendola in maniera anche più semplice, non c'è un Podemos qui in Portogallo. Dunque, ora come ora, diciamo, la situazione è effettivamente effervescente e si sente, insomma, se ne parla. Nonostante questo, ecco, direi che le piazze non si sono riannate. Anche quello che sta succedendo adesso a sinistra, quindi questo possibile accordo, anzi l'accordo che c'è stato e la possibilità quindi che ci possa essere un governo delle sinistre in Portogallo, sembra non risvegliare troppo le piazze. Se mi chiedete invece dei bar, sì, nei bar se ne parla tanto, se ne parla anche insomma vivacemente, però ecco, in termini di organizzazione nelle piazze, ecco, direi che il Portogallo in questo momento non sta rivivendo quello che ha provato a fare nel 2012. Credo che sia anche legato a un, come dire, gli ultimi anni in Portogallo sono stati anni molto difficili, come insomma credo anche queste notizie siano arrivate anche in Italia, e l'Italia insomma stessa è stata un paese che ha sofferto parecchio con la crisi. Io credo che questo abbia demotivato molto anche chi qualche anno fa ha provato a mobilizzarsi, a organizzare anche dei movimenti. Io direi che la questione sociale in Portogallo può essere vista appunto così, insomma, guardando a quello che è successo nelle piazze, ma ci sia anche un altro aspetto interessante che è accaduto in Portogallo negli ultimi anni, che poi insomma è un po' il fenomeno che io ho seguito più da vicino qua in Portogallo, che sono invece delle arene organizzate dagli stessi comuni, soprattutto appunto a livello locale, con i cittadini, insomma i cosiddetti processi partecipativi, come insomma bilanci partecipativi, esperienze in cui fondamentalmente si cerca, no, di ristabilire anche un dialogo con la cittadinanza. Ecco, questo invece c'è stato molto. Il Portogallo in questo momento è uno dei paesi che in Europa ha iniziato molti più processi partecipativi, insomma, paragonando con altri paesi. E perché dico questo? Dico questo perché è interessante vedere che Antonio Costa, quindi la figura probabilmente principale in questo momento nel dibattito nazionale e internazionale, è stata anche una delle figure che più ha spinto per la promozione di questi tipi di processi. Come ha detto Goffredo poco fa, Antonio Costa è stato sindaco di Lisbona fino all'anno scorso praticamente. Quando è entrato come sindaco nella capitale portoghese, insomma, si è sentita la sua presenza, si è sentita soprattutto appunto in questi termini, cercando, come dire, di aprire di più il modo anche di fare politica in città. Ecco, questo si è sentito molto e effettivamente da quando insomma Antonio Costa si insediò a Lisbona sono iniziate una serie di iniziative anche partecipative con i cittadini, dal bilancio partecipativo a anche altri processi, come un processo ad esempio interessante di discussione, di dibattito sulle case popolari, sulla riqualificazione anche dei territori a margine nella città. Questo diciamo si deve a Costa, ma si deve anche alla alla coalizione che ha retto il comune di Lisbona tra il Partito Socialista e un movimento a Lisbona che si chiama Cidadãos por Lisboa, quindi è un movimento cittadini per Lisbona che è capeggiato insomma da una donna, da una figura importante nel panorama politico nazionale, Elena Rosetta, che ha saputo affermare fortemente anche una riflessione sulle politiche d'abitazione a Lisbona. Ecco, tutto questo è stato importante a Lisbona, ma è stato importante anche a livello nazionale. Poi diciamo Lisbona è stato un po' ha fatto un po' da traino, è stato un po' un esempio anche per altre città. E in questo momento, rispondendo anche un po' alla vostra domanda, direi quasi paradossalmente, tra virgolette, sembra che ci sia più interesse da parte delle istituzioni politiche ad aprirsi attraverso questi processi partecipativi. Poi insomma possiamo discutere sull'efficacia anche di questi processi partecipativi, comunque c'è effettivamente un'adesione crescente da parte di questi comuni, piuttosto che un movimento diciamo dal basso. Ecco, sembra che questo stia ancora faticando ad esprimersi. Sì, ecco, l'esplosione che ci fu, quella che dicevate voi prima, insomma nel 2011-2012 delle piazze, poi piano piano sembra che si sia andato un po' spegnendo, ecco. Certo è quello che dicevate anche prima, insomma c'è stata una certa adesione da parte degli attori più in vista, ad esempio dentro quello che poi è riuscito a raccogliere anche parecchi consensi nelle ultime elezioni del blocco di Scherda. Quello sì, insomma, non si può negare che il blocco di Scherda in questo momento riesca a catalizzare molta attenzione da parte di chi fino a qualche anno fa, no? Non riusciva a riconoscersi in nessun movimento, in nessun partito. Ecco, il blocco di Scherda è riuscito a fare in poco tempo qualcosa di molto grande, ecco, di molto visibile soprattutto, e insomma il risultato delle elezioni è sotto gli occhi di tutti, quindi il potere anche di contrattazione in questo momento ha il blocco di Scherda per la formazione, no, che ha avuto nell'accordo con il Partito Socialista e il Partito Comunista, e poi eventualmente anche nella formazione del governo, insomma sarà forte. E comunque è stato il terzo partito, no, se non sbaglio, sì, proprio nelle elezioni, con il 10 e sì, qualcosa. Sì, ha raggiunto insomma livelli che non si vedevano da tempo. Ecco, il blocco di Scherda è una realtà, insomma, ha già, come diceva anche Goffredo, insomma, sono già anni che il blocco di Scherda è presente. Ed è presente in un modo, come posso dire? Poi insomma lo dico anche ho un'esperienza accademica diciamo vicina al blocco di Scherda, perché insomma c'è un centro in cui anche parecchie delle teste del blocco di Scherda fanno anche attività accademica, e insomma è un movimento che effettivamente riesce a raccogliere diverse anime in modo anche intelligente, e soprattutto promuove, no, o quantomeno ha sempre cercato di promuovere anche un dibattito sempre a cavallo tra il dibattito insomma sociale, dibattito anche scientifico sulle questioni sociali. Ecco, questo sicuramente insomma ne ha fatto anche la forza di questo movimento. Adesso insomma vediamo veramente quello che succederà, siamo tutti quanti un po' in attesa. Scusa il modo un po' giornalistico di porti questa domanda, ma è per cercare di capire. Prima, se non sbaglio, Goffredo diceva che il blocco di Scherda è abbastanza simile a Syriza, e poi o tu o lui dicevate qua non c'è un Podemos, quindi ci puoi spiegare meglio insomma in che senso è più simile a Syriza che a Podemos questa forza? Ma forse girerei la domanda a Goffredo. Quello ti posso dire quello che io insomma ho capito ovviamente la differenza che c'è tra il Podemos e il blocco di Scherda è che il Podemos probabilmente è un movimento che trova le sue radici insomma in maniera anche forte in movimenti, no, che tra virgolette nascono dal basso, insomma. Il blocco di Scherda si avvicina più probabilmente a una formazione partitaria, ecco, che in questo momento riesce a rappresentare sì gli interessi, però ecco, se la domanda è c'è un'adesione forte dal basso, c'è un movimento di piazza che continua anche ad alimentare il blocco de scherda, questo perlomeno da quello che vedo io non c'è, ecco, c'è un partito che si sta rafforzando, che probabilmente riesce anche a rappresentare in maniera forte, visibile, gli interessi, certi interessi, insomma, quindi delle persone che ovviamente l'hanno votato, però ecco, non vedo una somiglianza con quello che è accaduto in Spagna con il movimento Podemos. Però ecco, insomma, magari giro anche per quanto riguarda Siriza, magari giro a Goffredo, probabilmente mi saprà dire qualcosina di più. Se Goffredo vuole aggiungere, sì. Volentieri. Sì, sì, sì. Tanto siamo qui tutti insieme, te lo passo. Ciao. Sì, no, relativamente alle differenze tra blocco di scherda e Podemos, Roberto ha detto le cose essenziali. Podemos nasce sulla scorta del movimento degli indignati, il blocco di scherda invece nasce dalle esperienze di vari partiti degli anni 70 che si uniscono per fare un fronte comune alternativo sia al Partito Comunista che al Partito Socialista. Quindi il modello più vicino è quello di Siriza, ed è il blocco di scherda un partito a tutti gli effetti, con i suoi organi, eccetera. Quindi, nonostante ci sia una grandissima vicinanza con Podemos, e lì ritorno di nuovo al fatto che comunque Iglesias ha lavorato in Parlamento con Marisa Matias, c'è un rapporto personale molto molto forte, però da un punto di vista della formazione sono molto differenti. Il Podemos è anche più coerente da un punto di vista ideologico, nasce intorno alla visione di Monedero, eccetera, invece Doc de Scherda si è unificato ideologicamente nel corso degli anni, ma comunque sente ancora delle differenze dei partiti che lo hanno creato. Va bene, io proporrei di fare una pausa musicale, voi restate ovviamente collegati, e invece per chi ci ascolta facciamo una pausa e poi torniamo per, insomma, quella terza parte, diciamo, di questa chiacchierata sul Portogallo. Mondo, va bene, mondo complesso in onda, Istu che Okero, e a presto. A presto. Determinado eu entro, penso naquilo que eu faço. Com força interior ataco, mano, e não desfaço. Porque é isso que eu quero, não cair no desespero. Andar para a frente, sentir que estou a ser sincero. Mas a vida é lixada, a porta está fechada. Muitos a verem o nosso talento, mas não dizem nada. Yeah, nós sabemos que é assim. Muita inveja à minha volta, não quer isto para mim. É isso que eu quero, muita paz, união. Um bom beat no ouvido e um mic na mão. Agradecer a todos por o que tem que ser assim. Venha ao respeito primeiro, sou o dinheiro no fim. É isso que eu quero, estar ao lado complexos, com rimas a rolar anunciando o regresso, com beats na mesa alimentando o MC. É isto que eu quero, quero isto para mim. É isto que eu quero, que queres tu? Tu não podes desistir, se o fizeres vais cair. Que queres tu? É isto que eu quero, que queres tu? Tu não deixas de lutar, se o fizeres vais te afundar. Que queres tu? Procuro limite, muito mais que o limite. Esforço sempre, dá-me bom, o sentimento é sincero. Afirmo aqui esta street e que o que eu faço é bullshit. Mas eu só faço o que corre. E é isto que eu quero. O que eu quero é mais difícil do que chegar à lua. Mais complexo e complicado do que haver paz na tua rua. Na minha, da deles, tua causa daqueles que se mantém fiéis numa constante procura. Que é capaz, quando faz, logo traz algo. Queremos mais, isto é o bom. E esse mais, é respeito, é trabalho. Este é o bom, para comer, estou sujeito a pagar. E o dinheiro cheio, pouco de novo. Então eu quero mais respeito, salários mais justos. Sei que nada é perfeito, mas os impostos mais curtos davam-nos muito jeito para percorrer o percurso sem diferentes governantes com o mesmo discurso. É isto que eu quero, que queres tu? Tu não podes desistir, se o fizeres vais cair. Que queres tu? É isto que eu quero, que queres tu? Tu não deixes de lutar, se o fizeres vais te afundar. Que queres tu? Eu quero tal alguém o fortaleça, mas ninguém o imortaliza. Ele quer ser realeza, mas não se realiza. Que alguém o estabeleça, mas ele não se estabiliza. Para escreveres a letra, a caneta é que te escraviza. Não tenho mínimos, querem que eu minimize. Aparecem DVDs e dizem boy DVDs. Eu digo neve, bacana, eu não tive início. Tu querias que eu mini beat quando ouvi o teu mini beat. Tu queres te acudam, mas quantas tropas mudam são tantos. Que agora vais, ponto, ajudam os chantes. Por isso não ensines, pai nosso, ao gosto da paróquia. Queres que alguém dê a mão, liga o teu Nokia e tem juízo. Querias a minha rima, mas não vá apanhar. Olha para cima, vê se chegas ao meu calcanhar. Tu tens falta de linhas, salta vizinhas, só descaldas. Quando falas mal das minhas calinas e usas fraldas. Eu construo casas onde és um péssimo incline. Não duras, desaparece e barras como a Festin Clean. Eu estou na rampa das batidas com ideias. Tu queres uma e compras lâmpadas fundidas, pois odeias. Eu vi mil a irem, vi mil a virem, vi mil e tal marés. Queres que admirem os globos e tal o palmarés. De calma, cresce, vem à minha aula e eu recupero a tua alma para tu começares do zero. É isto que eu quero. Que queres tu? Tu não podes desistir. Se o fizeres vais cair. Que queres tu? É isto que eu quero. Que queres tu? Tu não deixas de lutar. Se o fizeres vais te afundar. Que queres tu? 12 e 15 minuti, torniamo in voce e in diretta dopo questa brevissima pausa musicale con i nostri, diciamo, tre ospiti dall'altra parte, cioè dall'estremo, diciamo, occidentale d'Europa, dal Portogallo, che insomma ci stanno dando un po' un quadro partendo dalle elezioni, dalle ultime elezioni, di quella che è la situazione in appunto in Portogallo. Intanto vi risaluto, ciao, anche per chi ci fosse, si fosse messo in collegamento con la radio in questo momento. Abbiamo fatto un piccolo quadro appunto della situazione, diciamo così, più istituzionale, quindi quello che si sta muovendo tra le elezioni che sono avvenute, la nomina da parte del presidente di un presidente del consiglio che non appartiene, diciamo, alla maggioranza eletta, la costituzione di un'alleanza tra i tre partiti, diciamo così, di sinistra, alleanza anche abbastanza inedita probabilmente nello scenario appunto degli ultimi anni. E avevamo anche iniziato a fare un po' un quadro delle relazioni, se ci sono, e a quanto ci dicevate non ci sono in questo momento, perché le piazze non ci sono concretamente, tra appunto i movimenti e questi e soprattutto il blocco di sinistra e il blocco di scherda. E adesso lascio la parola a Elena, perché voleva un po' chiarire le questioni abitative e poi torneremo invece su un piano più generale. Sempre per chi ci ascolta, ne stiamo parlando con Goffredo Adinolfi, Roberto Falanga e Clelia Bettini, che sono tre ricercatori delle università portoghesi, e per quanto riguarda Goffredo, insomma, è anche corrispondente del Manifesto. E insomma, volevamo soffermarci un attimo su quello che riguarda appunto le politiche abitative che sono state citate prima, e proprio perché, insomma, a parte che insomma il diritto alla casa è uno dei diritti prioritari e prioritariamente lesi in situazioni di crisi sociali, economiche come quella portoghese, così come quella italiana, insomma. E quindi volevamo chiedervi, da una parte, come dire, se c'è una visibilità dei movimenti che noi chiameremo di lotta per la casa in Portogallo, e dall'altra se ci sono politiche abitative attive a cui riferirsi, insomma, da parte delle istituzioni. Guarda, io insomma ti rispondo brevemente su quello che riguarda la questione dei movimenti. Ecco, se ci sono movimenti che si stanno mobilizzando, appunto, stanno portando avanti la causa abitativa, sì, insomma, c'è un movimento, soprattutto uno, direi, che da tempo, insomma, da qualche tempo si sta facendo sentire nelle piazze, che è il movimento Abita. È un movimento che cerca di raccogliere ovviamente le istanze delle parti, insomma, dei gruppi sociali più affettati, più colpiti, un momento di confusione linguistica, colpiti dalla crisi. E ovviamente, come dicevi tu, le politiche abitative sono quelle che subito, insomma, ne risentono. Questo sta succedendo. Il collettivo effettivamente sta riuscendo anche a mettersi in dialogo con le istituzioni, ecco, la dico in maniera molto ampia, perché poi di concreto Ripeto, essendo anche in una situazione in questo momento di stallo, non sappiamo effettivamente che misure verranno prese. Sappiamo, insomma, a grandi linee qual è la proposta, no, della coalizione delle sinistre anche in termini di welfare, però effettivamente adesso c'è tutto da vedere. Io ti posso dire dalla mia esperienza, ad esempio a Lisbona, ecco, negli ultimi anni si è sentita forte questa la mancanza di una visione anche integrata sulle politiche abitative. Quello accennavo poco fa, insomma, anche a delle iniziative, dei processi, dei programmi di partecipazione anche sul tema delle politiche abitative, ma insomma devo dire anche con una certa onestà che gli effetti di questi programmi che partono dalle istituzioni, quindi in questo caso quindi il Comune di Lisbona, gli effetti sono, come dire, non sono proprio, sono un po' minimi, ecco, sono un po' è abbastanza complicato, è abbastanza difficile poter dire che gli effetti siano visibili e forti per quanto riguarda Lisbona. Adesso non lo so, Goffredo, probabilmente per quanto riguarda invece, no, il welfare e le politiche abitative proposte anche dalla coalizione delle sinistre, ti può dire di più. Se siete d'accordo ve lo passo. Sì. Ok, ecco. Sì. Eccoci. No, cogliamo l'occasione, ci riallacciamo insomma a questa, all'accenno che ha fatto Roberto rispetto alla questione casa più in generale, insomma, le politiche abitative più a livello locale. E ci piacerebbe un po' indagare, visto che appunto le misure di contenzione, diciamo così, della spesa pubblica sono all'ordine del giorno ormai in tutti i paesi europei, in particolare in quelli appunto del Sud Europa, e insomma ci sembra di aver capito che appunto uno dei cavalli di battaglia, per intenderci, del blocco di sinistra e in generale di questa coalizione che si è creata è proprio quella di, come dire, riformulare, no, anche le politiche sociali in Portogallo. Ti chiederei se puoi di farci un po' un quadro anche di quello che è il pregresso, perché ne parlavamo fuori onda, negli ultimi, possiamo dire, anche 15 anni i paesi europei si sono allineati a degli standard nord europei, diciamo così, di attivazione di politiche sociali che sempre di più sono andati a erodere quelli che sono, diciamo, i diritti acquisiti, e quindi pensiamo per esempio ai mini job, no, che sono un po' il mood, come dire, il trend, non so come usare, che parola usare, che viene ripetuto costantemente anche qui in Italia, no? C'è stata una riforma del lavoro che ha falsato anche i numeri sui nuovi impieghi, perché si faceva riferimento alle piccole assunzioni, alle trasformazioni da contratto a tempo a contratto a tempo determinato, tutto questo per garantirsi, no, questa stabilità agli occhi dell'Unione Europea. Ecco, se il Portogallo ha fatto queste stesse misure, applicate insomma anche al territorio nazionale, e quali sono in piccola, insomma, velocemente le misure che invece intende proporre la coalizione appunto di sinistra. La coalizione di sinistra sostanzialmente nasce per proteggere lo stato sociale. Per capire la situazione portoghese bisogna ricordare che la grande vittoria della rivoluzione dei garofani è stata proprio introdurre lo stato sociale, che non era stato sostanzialmente introdotto durante la dittatura di Salazar, quelle che qui chiamano as conquistas de abril, la conquista di aprile. Quindi per capire bene il motivo per cui c'è e nasce una coalizione di sinistra, bisogna capire qual è il programma del centrodestra. E il programma del centrodestra si richiama in buona sostanza la Big Society di Cameron. Cioè loro dicono noi dobbiamo proteggere i cittadini, nessuno deve rimanere fuori, eccetera, però questo non rimanere fuori e questa protezione usa un linguaggio, la retorica della società civile, cioè sono i cittadini dal basso che si devono sostanzialmente proteggere da soli, e quindi per il centrodestra questo vuol dire smantellare l'intervento dello Stato nel pubblico, quindi ospedali, pensioni, eccetera, e mandare tutto ad organizzazioni sostanzialmente private, perché poi è di questo che si tratta. Ed è secondo me quello il grosso punto per cui la sinistra decide di fare un accordo insieme, e nonostante tenendo ben in chiaro quelle che sono state anche le negoziazioni con Tsipras, cioè dei vincoli di bilancio, loro cercano e offrono delle soluzioni per rilanciare il potere d'acquisto e per mantenere lo stato sociale con degli investimenti più forti da parte dello Stato, secondo loro finanziato attraverso un rilancio appunto dei consumi che rilancia anche poi l'economia. Va bene, sì. No, facevo questa domanda perché mi ricordo che c'era stato anche un grosso dibattito, per esempio all'epoca, credo nel 2008-2011, tra gli studenti, perché era stato istituito, ma correggetemi se ricordo male, una sorta di meccanismo di borse di prestiti agli studenti che permettevano di accedere all'università in cambio poi di un legame poi con delle istituzioni finanziarie che avrebbero recuperato questi fondi. Quindi già, diciamo, nel sistema di istruzione questi elementi erano stati proposti. Mi ricordo che era uno degli elementi che aveva portato poi gli studenti in piazza, e era interessante appunto capire come poi questi sistemi poi si siano stabilizzati nel corso del tempo. Grazie intanto di averci chiarito questa cosa. Il problema dei prestiti è appunto anche lì un'altra volta di disintervento da parte dello Stato nel pubblico, e che qui con la riforma di Bologna, così come in Italia, diciamo, la specialistica fuoriesce dal finanziamento dello Stato, e quindi automaticamente i prezzi sono molto più alti, e gli studenti si indebitano con le banche. C'è questa forma alternativa. In realtà il programma delle sinistre non entra così non specifico, sì. Quello che specifica questo programma è una parte molto importante, è un aumento del salario minimo, che qui ci sono 500.000 persone che vivono del salario minimo da 500 a 600 euro, una riduzione delle aliquote per la prevenzione sociale del 4%, e poi eliminare praticamente, qui in Portogallo, durante gli anni dell'austerità hanno introdotto un'imposta che arriva fino al 30% sui salari pubblici, per cui i salari pubblici sono stati tagliati tra il 10 e il 30% a seconda degli scaloni reddituali, e quindi togliere questo blocco. Questi sono i grandi punti del nuovo programma, per cui c'è un rilancio molto molto forte del potere d'acquisto delle famiglie. E poi un altro punto che è molto importante è quello della lotta, quello che si dice i recibos verdes, per cui al finto lavoro autonomo. I recibos verdes sono delle ricevute che vengono che le persone danno quando fanno i lavori come lavoratori autonomi, ma generalmente sono poi degli impiegati, e su queste ricevute ci sono delle aliquote altissime che arrivano fino al 50% di imposizione. E quindi questo, che mi sembra un punto molto importante, è una lotta contro il lavoro autonomo finto, e abbassare le aliquote di imposizione, perché poi ovviamente va a colpire, come sappiamo molto bene, le figure più fragili. Sì, quelle più precarie magari anche. Esatto, che in questi anni sono aumentate esponenzialmente, poi peraltro. E questo sistema del recibos verdes è una vera macchina infernale, perché ti obbliga a non accettare dei lavori, perché accettare certo tipo di lavori fa sì che tu vada a pagare più di tasse che non quanto tu puoi guadagnare, perché comunque hai un'imposizione fissa ogni anno. Senti, Grazie. E insomma, riprendendo poi un discorso un po' più in generale, ti chiederei di passarci anche Clelia Bettini, con cui vorremmo parlare, insomma, un po' appunto in termini ampi di qual è la situazione del mondo della cultura in questo momento in Portogallo, per cercare insomma di dare un'idea, non diciamo ovviamente non esaustiva, ma insomma un po' più ampia di quello che è il Portogallo in questo momento. Sì, ciao. Ciao, buongiorno e grazie anche a te per la partecipazione. Ciao. Prego, anzi, siamo molto contenti che qualcuno si interessi a noi, siamo sempre qui affacciati sull'America, che però non ci vede, e quindi non ci vede nessuno, nell'Europa e nell'America. Allora, ma è il mondo della cultura. Io volevo partire però da un punto che mi sembra abbastanza importante, riallacciandomi a quello che hanno già detto Goffredo e Roberto in un certo senso. Cioè, io credo che quello che sta accadendo in Portogallo debba essere osservato non solo da un punto di vista sincronico, cioè mettendolo in relazione con quello che sta accadendo in Spagna, che sta accadendo in Grecia e in altre zone d'Europa e non solo, ma la prospettiva diacronica portoghese nazionale, perché il Portogallo è veramente un paese particolare, come lo è ogni paese forse. Abbiamo riflettuto, ho sentito appunto prima sia Roberto che Goffredo su qual è la situazione dei movimenti, no? Voi chiedevate molto la partecipazione popolare in questo momento, ed effettivamente possiamo dire che è bassa, nel senso che non ci sono persone in strada o manifestazioni o incontri pubblici, ma questo non è strano. Cioè, questa è una cosa che a noi che abitiamo qui da molti anni non ci ha sorpreso, perché se osserviamo la storia portoghese, ecco, questo tipo di modo di fare politica, per esempio il fare politica è un'espressione che esiste in italiano ma non esiste in nessun'altra lingua, solo esiste in portoghese, non si dice fare politica, perché non si fa politica come noi siamo abituati a pensare in Italia. Osservando la storia portoghese del Novecento, noi vediamo una porzione enorme di anni, diciamo dal 26 al 74, in cui in Portogallo c'è una dittatura fascista, quindi un dittatore, Antonio Rivera Salazar, che forse in un primo momento è simile a quella italiana e a quella spagnola, ma poi diventa una cosa a sé stante, una dittatura fortemente portoghese. Quando la dittatura cade, perché si sfalda dopo tutti questi anni di isolamento e sussistenza minima e miseria totale, assistiamo a un momento di esplosione di partecipazione popolare, che però è cortissimo, nello spazio di 2 anni svanisce tutto. 74-75, no? Più o meno. Esatto, 74-75, fino diciamo all'80, 79-80, c'è questo fermento popolare particolarmente attivo, non solo nelle zone urbane, Lisbona e Porto e Coimbra, in un certo senso che è una città piccola ma importante, ma anche nelle campagne, c'è un tentativo di fare una riforma agraria, insomma il popolo esce fuori dalla tana, per così dire. Poi però sparisce questo, non c'è più. E dunque dobbiamo chiederci perché, ecco, perché i portoghesi sono così. Indubbiamente i 40 anni di dittatura hanno lasciato il segno, cioè esiste effettivamente una cultura, io non la definisco della paura, ma più blandamente del timore. Cioè, le persone sono timorose a esprimere pubblicamente la propria opinione, preferiscono farlo in altri modi, per altre vie che non sono necessariamente meno efficaci. La mia non è una critica politica, è semplicemente a che vedere con un modo di essere, con un modo di pensare la vita e la partecipazione alla vita. Per cui non è come se i portoghesi veramente uscissero fuori dalle loro case quando proprio non ce la fanno più. Ma ha quasi un carattere estemporaneo, ecco, come quando ci facciamo male a un piede e diciamo ahie, ecco, è un po' quello. Ma la politica si fa in un altro modo qui. Quello che c'è, secondo me, di veramente nuovo nel momento che noi stiamo vivendo è che sia il PSP, il Partito Comunista Portoghese, sia il Blocco di Scherda, che come hanno ampiamente spiegato prima di me Goffredo e Roberto, sono forze politiche che non sono la diretta espressione della classe dominante. Questo non vale per il PS, perché, attenzione, il PS e soprattutto una certa parte del Partito Socialista lo è. Lo era durante la dittatura, perché non necessariamente la classe dominante è di destra o sposa posizioni politiche affini alla destra. Certo. Però il PS è stato ed è continua ad essere anche espressione della classe dominante, cioè di quella che un tempo sarebbe definita la borghesia, media e alta borghesia portoghese. Mentre il Blocco di Scherda e il Partito Comunista Portoghese non lo sono. E questo è veramente nuovo, cioè il fatto che si rischi di avere un governo, è chiaro che l'uso del verbo rischiare qui è propositato, si rischia di avere un governo dove hanno una parte importantissima queste forze politiche, è la vera novità del momento che stiamo vivendo. E noi qui in Portogallo lo capiamo bene, perché la destra, cioè la classe dominante, cioè quelli che hanno ruoli di potere all'interno delle varie istituzioni, i giornalisti, reagiscono in modo che potremmo definire quasi isterico, cioè un'isteria dilagante, per cui si parla di colpo di Stato, che è qualcosa che sicuramente avete sentito anche voi dire, no? Sì. Cioè, colpo della sinistra prepara un colpo di Stato, loro lo dicono tutti i giorni questo, che si rischia un colpo di Stato, e non è un caso che si faccia riferimento proprio all'anno, a un periodo successivo, immediatamente successivo alla rivoluzione dei garofani. Continuamente dicono torneremo a quel periodo lì, per cui se non sei dei loro, se non sei un rosso, se non sei un comunista, sarai censurato, perderai il tuo lavoro, la sicurezza economica, i tuoi diritti. Ecco, questo è un discorso che a me personalmente mi fa ben sperare, cioè se davvero c'è questa paura nella classe che fino ad ora ha governato il paese, con i risultati che insomma sono sotto gli occhi di tutti, e noi ne facciamo le spese, le dirette conseguenze, le viviamo sulla nostra pelle, le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno. Ecco, questo a me personalmente mi fa ben sperare, e credo che sia una riflessione giusta da fare, soprattutto per chi non ha dimestichezza con quella che è la storia portoghese. Non so se sono riuscita a essere chiara. Sì, vuol dire che quantomeno c'è, come dire, qualcosa di nuovo, qualcosa che potrebbe anche cambiare, no? In qualche modo esatto, bisogna tenere presente che in Portogallo i cambiamenti politici e sociali sono sempre molto lenti. C'era uno scrittore portoghese del Novecento che io amo molto, che si chiama José Cardoso Pires, che definiva il Portogallo un po' come una palude, cioè questa idea di semipermanenza delle cose, poi piano piano, molto lentamente cambiano, no? Una foglia molto lentamente si disintegra e va a far parte dell'humus che rende fertile la terra, ma sono tutti cambiamenti molto lenti, hanno bisogno di molto tempo per avvenire. Non è un paese di cambi repentini, questo non lo è mai stato, ecco, non è nella sua storia. La cultura come se lo vive questo momento? Certo, un po' di speranza c'è, perché negli ultimi anni in Portogallo non c'era più nemmeno un ministero della cultura. Questo è una cosa che fa pensare, no? All'importanza che viene data alla cultura e in generale tutto quello che afferisce a questa idea, che è un'idea molto ampia della cultura. Quindi l'istruzione pubblica soprattutto, che ha subito attacchi fortissimi da parte dei governi, mi verrebbe da dire, precedenti, non solo quello di Passos Coelho. E quindi c'è speranza, e vediamo insomma se veramente, come dicono, le cose cambieranno e la cultura tornerà ad avere il posto che merita in questo paese. Guarda, io ti ringrazio anche di questa nota conclusiva, perché insomma è interessante capire anche le radici, no, di dei processi. Noi viviamo, noi che siamo qui a Roma, viviamo in un paese che insomma c'ha una storia altrettanto complessa e non meno paludosa forse di quella portoghese, e il fatto che voi siate lì è significativo anche di questo, no? Il fatto che voi siate viviate in un altro paese e sì, lavorate, però non ci scrivete sempre come quelli che sono dovuti scappare, perché no, anche per scelta, anche per scelta, anche se ci avessimo avuto, anche per scelta, no, proprio per valorizzare questo, no, il fatto che poi chi trova un'occasione, no, di poter lavorare all'estero lo fa anche consapevolmente, no, portandosi dietro la propria ricchezza anche di quello che fa, giustamente, una prospettiva internazionalista ci vuole sempre. Esatto. Però devo dire, a noi ci piacerebbe forse un pochino avere un'idea che se volessimo, ecco, potremmo tornare. Non ce l'abbiamo sicuramente. Sì, fate bene a non avercela, perché in effetti è così. E insomma, io penso che a questo punto siamo in chiusura, sono le 12:39. Noi vi ringraziamo molto e a questo punto vi chiediamo anche la possibilità a breve di risentirci per capire cosa succederà. Va bene, noi siamo qui, se speriamo di avervi cose nuove e belle da raccontare. Vi ringraziamo anche noi e vi salutiamo. Grazie a tutti e tre e un abbraccio, buon tutto, buona vita, buon lavoro, buon tutto. Grazie anche a voi. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.